Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Cosa mangeremo, dove compreremo, come sceglieremo i prodotti che arriveranno sulle nostre tavole in un futuro più o meno lontano? Come sarà in pratica il supermercato del futuro? Ce lo farà vedere la principale catena italiana della grande distribuzione ad Expo 2015 nel padiglione del cibo del futuro, dalle etichette aumentate alle barrette d'insetti. Dalla vetrina su strada ad internet e ritorno, nel retail vince chi fa surf, per così dire, tra i negozi e il web, una regola che vale sia per chi vende che per chi compra. E poi spazio ai nuovi consumi etnici che passano dalle borse Vuitton, così come dalle biciclette di bambù. Li scopriremo nel focus sui trend di questa settimana. La riflessione finale è dedicata, come sempre, alle parole chiave del marketing e della comunicazione. Oggi parliamo di tecnologia del sé, cioè di nuove e vecchie gestualità legate ai prodotti tecnologici. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Come mai c'è tanta gente qui? Penso per me molto sia dovuto all'assortimento. Il cliente entra da noi e ci trova tutto. Spaghetti a 150 lire, carne, frutta, verdura, tutto fino al caviale e alla ragosta. E questo è molto importante perché si risparmia tempo e denaro. Questo oggi, fra 1000-2000 anni, anche i supermercati, chissà, saranno considerati curiosità di epoche primordiali. La spesa si ordinerà elettronicamente e i lauti pranzi dell'epoca si svolgeranno a base di pillole. Sarà un bene o un male, ai posteri appunto, l'ardua sentenza. Era il 1957, in Italia nascevano i primi supermercati e di colpo il futuro entrava nella spesa di tutti i giorni. Anche oggi la grande distribuzione si interroga sul futuro, come si sceglieranno i prodotti, come saranno esposti, quali nuovi prodotti mangeremo e come li pagheremo. Ebbene, troveremo una prima serie di risposte ad Expo 2015 nel Future Food District, il padiglione del cibo del futuro che COP ha allestito in collaborazione con il Sensible City Lab dell'MIT di Boston e l'equipe di Carlo Ratti. Un vero e proprio supermercato dove sarà possibile anche comprare, un supermercato in cui vedremo applicata sul campo, ad esempio, l'internet delle cose con le etichette aumentate in grado di raccontarci tutte le informazioni sui cibi che compriamo, l'origine, la storia, la trasformazione dei prodotti. E poi ci sarà un robot ad accoglierci, tavoli touch al posto degli scaffali, corsie organizzate, pensate, per filiere, dal prodotto grezzo ai suoi derivati, dalla farina alla birra per intenderci. Ci sarà anche un'area dimostrativa in cui si vedranno i cibi del futuro. Barrette di insetti, sono 1900, pensate, le specie di insetti commestibili. E poi imballaggi fatti di scarti alimentari, coltivazioni galleggianti. Trovate tutte le foto sulla nostra pagina Facebook. Ecco che cosa ci hanno raccontato il presidente di COP, Marco Pedroni, e il direttore del Sensible City Lab dell'MIT, Carlo Ratti. Sentiamoli al microfono di Adriano Palazzolo. Non è un concept, è un supermercato che funziona, quindi con tanti elementi di novità, ma il tratto fondamentale è quello di mettere insieme le tecnologie e le persone. Quindi le tecnologie devono servire per rendere da un lato più fruibili le informazioni e dall'altro lato per permettere quello scambio che nei mercati e nelle piazze anche del passato era molto più forte di quanto è oggi. Noi vediamo il supermercato del futuro come un mix fra ciò che era l'agorà di un tempo e ciò che è la grande funzionalità delle macchine di oggi e di domani dal punto di vista degli assortimenti e dal punto di vista delle tecnologie. Quali sono le innovazioni tecnologiche che il consumatore troverà da qui ai prossimi anni nei vostri punti vendita? Allora, alcune delle innovazioni che si vedranno nel supermercato del futuro noi speriamo di poterle portare anche rapidamente dentro i nostri negozi, altre invece sono per certi aspetti un po' più ad ampio spettro, a lungo raggio. Per esempio, una delle cose più interessanti saranno i tavoli interattivi dove ci saranno i prodotti fisici, ma i consumatori, attraverso indicando i prodotti o toccando i prodotti, potranno evidenziare su degli schermi collegati sopra a questi banchi tutte le informazioni relative al prodotto, quindi i prodotti parleranno molto di più di quanto può parlare un'etichetta, che ovviamente è molto limitata. Altre tecnologie che mostreremo saranno il rifornimento automatico attraverso i sistemi di automazione dei banchi. Una cosa molto importante però che noi vogliamo mettere in evidenza e che ha a che fare con le tecnologie, ma non solo, è il fatto che le filiere produttive partono da prodotti molto semplici fino a prodotti complessi. Noi presenteremo 5 filiere, quindi c'è tutto un aspetto che riguarda proprio i contenuti del cibo e non solo le tecnologie con cui presentarlo e gestirlo, che sono particolarmente rilevanti. Poi nell'exhibition area, che è un padiglione che avremo sulla piazza, mostreremo anche tecnologie, ipotesi e soluzioni ancora più futuriste, le fattorie del mare, l'orto verticale, tecnologie per i controlli contro le sofisticazioni attraverso l'impronta del contenuto genetico dei prodotti stessi e tante altre cose che ci sembrano interessanti, oggi non ancora praticabili in un negozio che funziona, ma domani potrebbe essere. Il Future Food District è un'area tematica all'interno di Expo in cui noi abbiamo seguito sostanzialmente due parti. Una parte che è un padiglione, che è un supermercato, un vero e proprio supermercato gestito da Coop, che funzionerà come supermercato nel periodo di Expo, in cui abbiamo cercato di introdurre alcune innovazioni legate all'interazione tra prodotto e prodotto, tra prodotto e persona e al mondo appunto delle informazioni che possiamo ricevere quando siamo nel supermercato. E poi davanti una piazza dove sarà possibile comprare dei prodotti di Coop e consumarli e anche avere esperienze puntuali legate a come sta cambiando la produzione, ad esempio con alghe o con vertical farm. Che cosa troveremo nella vostra versione di supermercato del futuro? Il tema da cui siamo partiti è proprio quello di come oggi le tecnologie ci possono permettere di avere nuove interazioni. A noi non interessa tanto il tema tecnologico, interessa poco, interessa molto di più il tema della relazione, il tema sociale. Quindi un mercato che un po' come in un vecchio mercato ci permette di capire meglio le storie dei prodotti e interagire in modo diverso con le altre persone. Ecco, in questo senso il concetto di Internet delle cose come viene declinato all'interno del Future Food District? Ogni prodotto ci racconta la sua storia, è un po' come il signor Palomar di Calvino quando va in una fromagerie di Parigi e gli sembra di essere al Louvre, in cui dietro ogni formaggio c'è un diverso pascolo sotto un diverso cielo. Ecco, oggi tutto questo è possibile riuscire a raggiungerlo, è possibile raccontarlo proprio perché i prodotti sono tracciabili, questa idea di Internet of Things, di Internet delle cose, per cui ogni oggetto ci può raccontare la sua storia. Qual è la visione di futuro che offre? A noi non interessa tanto pensare o cercare di prevedere il futuro, sarebbe un esercizio futile. Se guardiamo al passato, nessuno ci ha mai azzeccato. La cosa importante invece è cercare di provare a cambiare qualcosa, in questo caso a cambiare qualcosa nel supermercato, e vedere come questi cambi, quasi come fossero delle mutazioni in un sistema biologico, quali di questi poi hanno successo e hanno successo. In questo caso noi interessa in particolare la dimensione sociale, cioè quindi come il supermercato di domani possa essere un supermercato più umano, più sociale, quasi come il mercato di ieri. E qual è l'esperienza per il consumatore? L'esperienza per il consumatore parte proprio dal prodotto e fa sì anche che non solo che il mondo delle informazioni aiuti un consumo più informato e più consapevole, ma permette poi anche al consumatore di giocare altri ruoli. Uno degli aspetti più belli forse del supermercato, che scopriremo all'inaugurazione, è il fatto che proprio grazie alla rete, grazie alla capacità di capire chi ha qualcosa da offrire, ci sarà possibile anche trasformare i consumatori stessi in produttori, cioè come nelle dinamiche peer-to-peer che vediamo oggi in rete, utilizzarle nel campo del supermercato, di un supermercato in cui ciascuno diventa sia produttore che consumatore. Quali sono gli altri settori in cui lei sta lavorando? E parlo di settori in cui le innovazioni tecnologiche hanno un risvolto per la vita dei consumatori. Noi stiamo lavorando oggi su molti altri progetti, sempre cercando di usare questa idea di innovazione e di provare, di sperimentare cose nuove, proprio testandole e cercando di costruire un percorso comune con quelli che poi provano le cose che progettiamo. Oggi stiamo lavorando per esempio per il Salone del Mobile di Milano, un progetto per Artemide in cui lavoriamo sulla luce, su come la luce stessa oggi può essere trattata in modo diverso. Il progetto si chiama Free Pixel ed è un po' l'idea di come, ecco, l'elemento di luce oggi possa diventare, essere quasi libero e possa creare situazioni nuove, gradienti nello spazio, in totale libertà inimmaginabile solo qualche anno fa. Bay. Andate a vedere il sito fitbay.com, è una piattaforma digitale danese che consente alle persone di trovare online i propri gemelli, persone cioè con una corporatura simile alla propria al di là della taglia, così da scambiarsi consigli sulla vestibilità dei capi comprati online. Builder e De Klerk invece è un negozio di Amsterdam organizzato ad isole, ognuna dedicata ad una ricetta specifica con gli ingredienti preconfezionati. Sono solo due dei casi presentati a Retail Innovations, l'appuntamento annuale sull'innovazione nel retail organizzato da Kiki Lab, il fondatore Fabrizio Valente. Una principale tendenza è quella che abbiamo definito l'efficienza per i clienti. Oggi come clienti noi ci aspettiamo di poter fare dei processi che siano semplici, che siano fluidi, che non ci facciano perdere tempo, poter trovare le cose che cerchiamo, e quindi esempi che vengono da tutto il mondo ma anche dall'Italia con successo riescono a farle. Ad esempio il caso che noi abbiamo premiato col nostro gruppo mondiale come caso più interessante del mondo ad Amsterdam, Builder & De Klerk, che ha creato un supermercato organizzato per ricette, per cui quello che da cliente vado a comprare sono gli ingredienti nelle misure giuste per poter fare quella ricetta. Questo è molto interessante perché va a incrociarsi anche con il tema di quello che chiamiamo il greentailing, cioè dei valori nel retail. Allora, il tema dello spreco alimentare è un tema molto forte e alcuni retail ci stanno lavorando con successo bene. Noi stiamo vedendo anche di portare in Italia un po' questi temi con i nostri clienti e stanno cominciando anche in Italia a muoversi delle tendenze e dei risultati molto molto interessanti per il futuro. I retailer più attenti hanno capito che l'online non è un competitor, ma è invece, come dire, un amico da portarsi in casa. Ecco, qual è il segreto, la ricetta vincente per integrare i due canali? Non esiste una sola ricetta, ce ne sono varie, certamente l'online può diventare un alleato in quella nostra prospettiva che definiamo di cross-canalità. È una cosa che in Italia ancora si fa poco, ma chi la utilizza con grande successo. Perché? Perché di fatto non è tanto importante aggiungere semplicemente dei canali digitali, social media e chi più ne ha più ne metta, quanto selezionare quelli più adatti per il nostro posizionamento, per il nostro target, e soprattutto integrare quello che facciamo online e offline. Cosa vuol dire? Creiamo il canale digitale, mandiamo i nostri clienti anche sul web, ma facciamo in modo che dal web ci siano delle cose molto concrete che spingono i clienti a tornare in negozio, perché sennò i nostri negozi rischiano di restare vuoti. Del resto abbiamo visto anche il movimento inverso, cioè brand nati in rete, penso a Google, penso a eBay, che cercano la faccia su strada, la vetrina, insomma il negozio serve ancora. Serve e servirà, è un'illusione pensare che il commercio diventi solamente digitale, e questa è una conferma molto forte. Anche casi meno eclatanti come quelli di Google o di eBay, ma abbiamo Birchbox, che è un caso comunque già di grande successo e sta crescendo velocissimamente, che è nato come e-commerce del beauty e che adesso ha aperto il primo negozio fisico a Manhattan, a Soho. Siamo andati a visitarlo con un nostro retail tour organizzato per i retailer italiani. Essere e avere. Cos'è questo sapore che va in contrapposizione al pollo? Ho aggiunto delle spezie per insaporire la salsa e del coriandolo per guarnire e dare freschezza. Ma perché cambiare una ricetta che ha 200 anni? Perché, madame, forse 200 anni sono un po' troppi. Focus sui trend. Anche i consumi etnici stanno cambiando. La maggiore integrazione traina, per esempio, il settore alimentare, che nel nostro paese cresce del 10% rispetto a un anno fa e che assiste anche a fenomeni nuovi. Più di 2 italiani su 10, pensate, dichiarano di comprare prodotti alimentari nelle botteghe etniche gestite da stranieri. Anche la cucina etnica, del resto, si fonde con quella dei paesi occidentali nelle ricette di molti locali di successo, rispecchiando intrecci e contaminazioni sempre più ricercate che ritroviamo anche nella moda e nel design. Cambiano gli equilibri dell'economia e del consumo globale e i prodotti lo testimoniano. Quindi sia ai simboli, ai contenuti, ai richiami esotici, ma non più tali e quali, abbinati bensì agli elementi più contemporanei, per unire così artigianalità, creatività e innovazione. Questo il tema di oggi, ne parliamo con Lucia Kromecka di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buongiorno, è proprio così, Maria Luisa. Ecco, iniziamo subito dagli esempi, li abbiamo già pubblicati sulla nostra pagina Facebook, sono tutti progetti molto belli. Partirei, Lucia, se sei d'accordo, dalla casa e dalla bicicletta. Senza dubbio sono gli ambiti interessantissimi anche nelle nostre ricerche. Noi abbiamo questo osservatorio permanente in 40 città del mondo che proprio ci conferma che stiamo attraversando una fase di rigenerazione dell'immaginario dell'etnico in chiave assolutamente pop, e i casi sono tanti. Noi abbiamo chiamato il tema primary marks, o meglio come i segni primari, quasi primitivi o addirittura etnici, diventano tratti distintivi per contesti e oggetti in linea con la sensibilità moderna delle persone. E i progetti scelti oggi da rappresentare in questa puntata sono delle apristrade di questa nuova grammatica del saper fare e anche dei processi pop. Il primo esempio arriva proprio da Torino. Ha sorpreso tutti la nascita di questo progetto immobiliare, si chiama 25 Verde, fatto dall'architetto Luciano Pia Torino. E di che cosa si tratta? È una struttura di 5 piani, composta da 63 appartamenti, tutti diversi tra loro, che sono circondati da 150 alberi ad alto fusto, si possono vedere dei terrazzi e ci sono altri all'interno del corte giardino. La struttura addirittura in acciaio corten è a forma di tronco d'albero. È il risultato, che è sicuramente particolare e singolare, perché assomiglia tra un mix di villaggio in foresta pluviale e resort di lusso. Ecco, vediamo che questo saper fare ispirato da mondi lontani, che sono magari anche i linguaggi di stile più che altro, si increccia molto bene con la nostra società di consumo, in questo caso in contesto immobiliare. Vediamo anche l'esempio di bicicletta che arriva da Bamboo Campus Bikes. Hanno pensato di creare delle nuove biciclette usando il bambù. Il bambù è resistente come l'acciaio, al contempo ha la capacità di ridurre l'impatto causato dalle vibrazioni, fondamentale per le biciclette. Ecco, l'estetica di queste biciclette in bambù e anche fibra di carbonio, perché ovviamente l'innovazione e i processi sono assolutamente contemporanei, sono numerate e personalizzabili. E la cosa più originale in assoluto è che i dettagli e i colori sono fluo, abbinati al bambù. E così è un must have assoluto per gli appassionati del genere. Per la moda cosa hai scelto? La moda ha lavorato molto verso questa direzione, cioè il dialogo tra codici riconosciuti e riconoscibili e anche l'impronta iconica. E qualche mese fa Nicolas Guerrier, che è il direttore artistico abbastanza novello di Louis Vuitton, ha presentato la collezione Masks. È una collezione di borse raffinatissime con dettagli tribali in metallo. Lui si è ispirato alla collezione personale di Gaston Vuitton, il nipote del fondatore del marchio. Questa collezione è stata addirittura presentata nel 1931 e durante la colonia all'Expo di Parigi. È ricca di maschere africane. Lui ha ripreso queste maschere africane per fare una nuova operazione di moda, di marketing, comunque una via di mezzo, unendo il monogramma dei Louis Vuitton con l'iconografia del continente africano, però non ha tradito il marchio, cioè questa è stata la parte coraggiosa e ovviamente ha generato visibilità in tante testate. Torniamo al design, Lucia, con due collezioni molto particolari. Ah sì, la Tokyo Tribal Collection, la nuovissima collezione di mobili disegnata da Nendo per Industry, un'azienda di Singapore. Ecco, l'idea principale era di abbinare produzione industriale e artigianato attraverso la collaborazione con industrie locali e sono riusciti veramente. La collezione comprende 22 oggetti, sgabelli, sedie, tavoli, mensole, di forme compatte e linee semplici, però, perché hanno pensato alle case moderne con problemi di spazio. E i mobili sono progettati con rovere e massello per le strutture in tonaco di sabbia vulcanica, addirittura per le finiture, in combinazione con rattan di bambù. Ecco la parte veramente del saper fare. Tessuto a mano da artigiani delle Filippine, ecco, senza dubbio una vera e propria tribù di pezzi che dialogano tra loro, tra il passato e il presente e ovviamente anche il futuro. Un altro interessantissimo progetto arriva da Gandia Blasco, ecco, un brand spagnolo che ha anche lanciato questa linea di tappeti che si chiamano GAN, e da sempre loro sono legati all'artigianalità e al saper fare locale. E Banda Space è la nuova collezione che interpreta la filosofia del marchio, tutta disegnata da Patricia Urchiola. Si tratta di una serie di strisce ricamate coloratissime, tipo tappeti per intendersi, che ai lati sono muniti di velcro in modo tale da poter rivestire divani, puff, poltrone. Così si possono comporre dei paesaggi fluidi che richiamano le case del Medio Oriente, ecco, le tende dei beduini, però manca il senso dell'opulenza, che la collezione tessuta in India è una idea molto bella, perché nella piccola comunità di donne sono potuti creare davvero dei patterns interessantissimi. Ma l'altra cosa super contemporanea è l'uso di colori fluo, belli, facili da abbinare nelle nostre case di oggi, e le texture sui tessuti sono assolutamente minimal abstract, molto contemporanee. Sembrano quasi delle ceramiche che rivestono pavimento e poi le sedute sono veramente molto belle. Ecco, Lucia, sono progetti che in qualche modo rispecchiano anche un passaggio culturale? Sì, non c'è dubbio che questo tipo di progetti fanno parte di una nuova categoria di cultura materiale che non rispecchia il passato in modo passivo, ma è composta da oggetti e contesti che sono una perfetta somma di simboli riconoscibili, sì, etnici anche, ma anche innovazione tecnologica, interpretazione creativa. Possedere questo tipo di oggetti e vivere in questo tipo di spazi che creano un cortocircuito tra quello che noi diciamo il locale e il globale, significa che noi come consumatori, da un lato, possiamo sentirci rassicurati perché esiste un legame tra noi stessi e le radici del mondo, e dall'altro ci permettono di acquisire una mentalità cosmopolita e sì, anche essere cittadini del mondo. Grazie Lucia, alla prossima. Buona giornata. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto, come sempre a questo punto, a Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Ben trovata Maria Luisa, a tutti gli ascoltatori. Oggi mi hai proposto la tecnologia come tema. Sì, la tecnologia del sé, perché sicuramente il lancio di nuovi dispositivi, devices, in particolare penso agli smartwatch, quindi Apple ma anche LG, insomma tante altre aziende che si stanno in qualche modo orientando verso oggetti che, se ci pensiamo, recuperano una gestualità molto naturale. Non c'è nulla di più naturale che guardare l'orologio, quindi è forse il primo oggetto tecnologico che noi molti decenni fa abbiamo cominciato a introdurre nella nostra vita quotidiana. Questo vuol dire che la tecnologia è sempre più parte, è vero, della nostra esperienza personale, addirittura del corpo, ma comincia anche a ragionare su gestualità che sono più naturali. Quindi la chiave del successo o dell'insuccesso, pensiamo ai Google Glasses, ad esempio, di determinati prodotti è, ci stai dicendo, l'inserimento nelle abitudini quotidiane. Nelle abitudini e in qualche modo anche proprio nella corporeità, no? Di ognuno di noi. Non a caso Google Glass oggi si sta orientando verso attività che sono più specializzate, si cominciano a utilizzare per esempio nelle operazioni chirurgiche, perché in quel momento si ha bisogno davvero di quell'archivio di informazioni che magari la lente e l'occhiale ti può dare, mentre invece è molto lontano dalla quotidianità e dall'idea di sguardo che probabilmente merita di rimanere naturale. Quindi bisogna stare molto attenti alla invasività che la tecnologia, anche molto innovativa, può avere nei confronti della nostra abitudine quotidiana. I media siamo noi, mi hai scritto quando mi hai preannunciato il tema di questa settimana, ecco, in che senso? Nel senso che non abbiamo più un sistema di broadcasting che ci impone dei messaggi e i contenuti della comunicazione. Noi diventiamo nello stesso tempo emittenti e riceventi della tecnologia, e quindi noi diventiamo il medium è anche il messaggio. Quindi su questo c'è da aggiornare anche la teoria di McLuhan, che diceva il medium è il messaggio. No, in realtà il medium siamo noi e nello stesso tempo siamo anche il messaggio, quello che ci interessa comunicare agli altri. Quindi è una indicazione fondamentale per chi oggi si occupa di comunicazione, di pubblicità, di catturare insomma l'attenzione del consumatore. Assolutamente, non si può più essere manipolatori, non si può essere semplicemente persuasivi, bisogna riuscire a creare un rapporto di fiducia, di confidenza, di reciprocità con i nostri interlocutori, e dobbiamo anche accettare l'idea che poi qualcuno ci possa riprendere e ci possa fornire magari delle altre indicazioni. Grazie dunque a Francesco Morace, così come in regia a Carmelo Lauricella. Pagina programmi Essere Avere di Radio 24 per riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, pagina Facebook per tutti i contributi aggiuntivi, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 15. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.